Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. È lunedì, andiamo a cominciare la settimana con l'approfondimento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Carlo, già mercoledì scorso sui giornali, soprattutto sul Gazzettino di Venezia, ricordo, sui giornali di Veneziano, si parlava della TIA, della tassa sui rifiuti, e di Veritas, che insomma è l'azienda che svolge questo mestiere e che ovviamente ci manda le bollette a casa, perché c'era un'interessante notizia che riguardava l'IVA sulla tassa, che è stata applicata per un po' di anni, adesso forse non lo è più, ma c'è qualcuno che ha vinto una causa. Sì, stiamo parlando proprio di una battaglia iniziata nel 2009, di cui l'Adico ha subito contestata l'illegittimità del prelievo dell'IVA sulle bollette dei rifiuti, di cui finalmente la Cassazione ha sancito in maniera definitiva che l'IVA al 10% sulla tassa dei rifiuti non è dovuta e pertanto intimato il gestore a dover restituire i soldi. Ecco, in questo caso ha intimato il gestore a restituire i soldi a chi ha fatto la denuncia, ma poi ovviamente questo va a ripercuotersi su tutti. Certo, abbiamo iniziato nel 2009 in confronti appunto della Veritas in questo caso, ma tutti sono riconducibili alla stessa problematica. Abbiamo denunciato come il prelievo è legittimo e di fronte a quelle che sono state le prime pronunce favorevoli, chiaramente il gestore ricorreva in appello, fintanto che andando avanti per quelli che sono, ahimè, tutti i gradi di giustizia che sono previsti in Italia, siamo arrivati finalmente in Cassazione, dove una volta per tutte è stata posta fine a questa annosa vicenda e ha intimato appunto il gestore a restituire i soldi dell'IVA. Quindi una vittoria importante che adesso chiaramente i gestori tendono a faticare a voler recepire, perché hanno già cominciato a dire che vogliono aspettare i decreti attuativi del Ministero per capire come restituirla. Noi siamo i toni della polemica dicendo che, come all'epoca non hanno chiesto tanti chiarimenti per prelevare, oggi devono restituirla con lo stesso meccanismo con cui l'hanno prelevata, per cui ci attendiamo che si possa arrivare a un epilogo in pochi giorni e non come tutte le solite vicende all'italiana. Ecco, mi verrebbe voglia di chiedere anche gli interessi su questi soldi, guarda te. Guarda, qualcuno ha già cominciato a dire che metteranno in conto sulle bollette i costi per il calcolo dell'IVA anziché pagare gli interessi e gli oneri su quelle che sono le cifre che insomma, per 10 anni hanno prelevato e di cui adesso devono restituire. Sarà una partita che ci vedrà ancora impegnati, ma che certamente ha permesso ai nostri uffici di esultare, perché ricordiamo che quest'anno il 2016 è iniziato con due importantissime pronunce delle Supreme Court, una per quanto riguarda la conversione IVA-euro e adesso quella sull'IVA 10%. Speriamo che sia veramente un buon auspicio per andare avanti e continuare a ottenere questi risultati clamorosi che vanno a salvaguardare quelli sono i diritti delle famiglie e dei consumatori in generale. Ecco Carlo, come consumatore ricordo che la settimana scorsa proprio ho pagato la tassa dei rifiuti, no? Volevo sapere, ma adesso c'è ancora l'IVA conteggiata sulla TIA oppure no? No, l'IVA adesso non c'è più, tant'è che insomma la tassa dei rifiuti ha cambiato anche sì. Nome, si chiama TASI, proprio per superare questo balzello, ma quello che è stato il regresso oggi si deve restituire. Certamente è vero che cambiando nome è sparito balzello, ma comunque l'importo dell'IVA non è stato diminuito, ma è stato mantenuto. Ma purtroppo siamo in Italia e non ci stancheremo mai di stupirci. Sì, infatti mi sembra di pagare sempre, anzi credo di pagare di più rispetto a una volta. Vabbè, staremo a vedere se ritorneranno questi soldi nelle nostre tasche. Quindi per quanti anni dovremmo farci ridare i soldi indietro? Dovranno restituirsi l'importo dell'IVA per i 10 anni che sono state prelevate. Noi abbiamo fatto un calcolo che approssimativamente, non sono grandissime cifre, per un appartamento di medie dimensioni intorno ai 75-80 metri quadri, abitato da 3-4 persone, la cifra in gioco non è una cifra che ci cambia la vita, ma comunque si parla di importi intorno ai 120-150 euro. Beh, 120-150 euro, interessante. Grazie mille all'Adico. Se abbiamo qualche dubbio possiamo sempre contattarvi. www.associazionedifesaconsumatori.it è il sito, dove ci sono anche i contatti telefonici. Grazie al presidente Carlo Garofolini. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.